Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo tema di questa settimana insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, il tema è quello della salute, ma vedremo di capire in che modo. Ben trovato al presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, un saluto a tutti. La salute, anche la salute quotidiana, siamo ancora abituati ad andare dal medico di base, adesso hanno anche degli orari allargati, però la tecnologia ci consente delle ricerche, delle informazioni molto veloci, cioè si cercano informazioni sulla salute, sulle cure, sulle terapie attraverso internet. È una cosa buona, è una cosa negativa, fino a dove è bene fidarsi? Carlo, allora, la tecnologia ci aiuta in questo senso e tanti approfittano di questo. Sì, sembrerebbe proprio così, Mirko, che la tecnologia in questo senso sta dando una mano anche ai cittadini per cercare quel tipo di informazioni in ambito sanitario, soprattutto, che normalmente magari dal medico non riesce ad ottenere, ma ancor più sembrerebbe che tramite internet le persone che sono anche affette da certi disturbi o da certe patologie utilizzano molto internet anche per cercare uno scambio di esperienze tra persone che sono affette dalla stessa sindrome. Quindi secondo me un confronto molto utile ed indispensabile, che sicuramente può trarre il meglio anche da quelle che possono essere certe situazioni difficili, come quelle che possono essere per i pazienti quando si è ammalati. Certamente, come tutte le cose che si cercano su internet, bisogna stare attenti a filtrarle e a verificare, soprattutto trattandosi di salute, che le informazioni siano vere ed efficaci. In questo senso, appunto, come si fa a fidarsi? Allora, innanzitutto il fenomeno dei medicinali che si acquistano su internet non è un fenomeno che anche questo sia immune dalle contraffazioni, perché normalmente sappiamo benissimo che anche in Italia in particolar modo il fenomeno della contraffazione è un fenomeno che assume sempre degli aspetti molto rilevanti, ma soprattutto in ambito sanitario, quando bisogna curarsi bisogna stare molto attenti. Certo è che se da una parte dobbiamo stare attenti appunto a non acquistare fenomeni contraffatti, dall'altra bisogna anche constatare come internet in ambito sanitario sta avendo un ruolo molto determinante, perché sembra che se anche il medico di base risulta comunque la fonte principale per i pazienti per recuperare ed avere informazioni, ed è il 56%, internet viene utilizzato comunque moltissimo anche per ottenere appunto quel tipo di informazioni che a volte si cerca oltre rispetto a quelle che vengono date dal medico. Io stesso vedo che per il lavoro che facciamo i consumatori che si rivolgono all'associazione, all'Adico, sono dei consumatori che tramite internet cercano anche di informarsi prima di venire da noi, e la maggior parte delle volte vedo che proprio vengono da noi con il problema, ma anche con sentenze della Cassazione stampate, con sentenze dei giudici di pace di una provincia rispetto ad un'altra, per cui in questo senso internet, se utilizzato così, può certamente dare un notevole contributo, perché per noi l'informazione è sicuramente alla base di tutto. Che cos'è che si cerca? Si cercano prevalentemente cure, informazioni sui farmaci? Sappiamo che la parola più cercata negli ultimi tempi è meteo, ma ovviamente per quanto riguarda la salute invece cosa si cerca? Beh, normalmente i termini più cliccati rispetto a quelli che sono i principi attivi rimangono sempre i nomi più noti, come per esempio possono essere l'aspirina e la tachipirina. Noi sappiamo che però parallelamente a questa indagine ci sono altri fenomeni sempre legati all'ambito sanitario, che questa ricerca non ha evidenziato, ma che non abbiamo altri dati, che per esempio molto riguardano i prodotti di estetica, molto riguardano certi prodotti soprattutto per i maschi che hanno a che fare con la calvizia, l'anticalvizia, e molti altri prodotti normalmente hanno anche a che fare con il famoso Viagra, che è un prodotto che viene molto cercato su internet proprio perché si vede che molti ancora non hanno il coraggio di rivolgersi al medico di base, e anche per questi vigono certamente gli stessi consigli. Poi per quanto riguarda internet e la sanità, bisogna dire che oggi comunque anche gli stessi ospedali e i centri convenzionati sempre più stanno dando la possibilità di poter prenotare le visite tramite internet, e qua siamo al 15%. A fianco alla prenotazione della visita c'è anche la possibilità di acquistare medicinali di largo consumo, i famosi medicinali da banco, nei stessi portali di queste strutture, e qua parliamo di un altro 3%, quindi certamente in questo senso può essere interessante questa cosa, anche se il farmacista, ricordiamo sempre, ha un ruolo importante, perché poi abbiamo scoperto che al di là di internet, al di là di quello che possono essere i consigli del medico di base, poi sai, molte volte ci troviamo che l'ultimo parere lo riceviamo sempre dal farmacista. Eh sì, il parere finale, credo che poi alla fine anche la relazione interpersonale sia quella che conta di più. Un conto è prenotare online o scaricare il referto tramite internet, tramite il computer. Un conto è magari fare una cura. Finché si tratta di paracetamolo o di aspirina, d'accordo, va bene. Quando magari le cure sono più complesse, forse è bene stare attenti. Di internet in questo caso è meglio fidarsi un po' meno. Sì, io concordo con te, secondo me bisogna, la cosa molto importante è capire quella che è la linea di confine, perché certamente ritengo che tutto quello che è l'aspetto legato all'esperienza, all'informazione, sicuramente è un aspetto importantissimo che può anche andare oltre rispetto a quello che possono essere i consigli che danno i medici, perché oggi vediamo che qualsiasi informazione, qualsiasi cosa, qualsiasi dubbio, ormai internet sostanzialmente sta diventando un pochino la risposta a tutto. Certo, non bisogna neanche spaventarsi, perché poi a volte si leggono anche certe cose che magari spaventano più di quanto non sia necessario. Altra cosa molto importante, sono d'accordo con te sul fatto che comunque il rapporto personale o il rapporto di fiducia che un paziente ha con il suo medico, o come abbiamo detto, può anche essere con il farmacista, perché molte volte il dottore scrive e poi uno va in farmacia, a volte non si capisce neanche cosa si scrive, là si apre un dibattito, però certamente può essere importante anche questo. Da ultimo devo dire che, parlando di sanità e parlando di farmaci, siamo molto lontani ancora ad arrivare a poter acquistare i farmaci con gli stessi principi attivi per poter risparmiare qualcosina, in particolar modo per i medicinali da banco. Io ricordo che nel sito dell'Adico c'è anche un bellissimo progetto realizzato poco tempo fa che si chiama il traduttore farmaceutico, che permette a tutti di ottenere qualsiasi tipo di informazioni che un consumatore deve avere, sia lato della prescrizione, per chi acquista internet, per chi si rivolge al farmacista, al medico, e ci sono oltre 770 nominativi di controindicazioni e di terminologie che a volte si fanno fatica a capire di cosa si tratta, e che in ordine alfabetico sono stati inseriti, di cui sono stati spiegati con un linguaggio molto molto semplice che permette a tutti di poterli comprendere. Andate sul sito associazionedifesaconsumatori.it, in prima pagina c'è appunto il traduttore farmaceutico liberamente scaricabile, consultabile. Grazie all'Adico, al presidente Carlo Garofolini, settimana prossima insieme ancora con altri due argomenti. Buon proseguimento. Grazie a te Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.